Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un tempo, dopo pranzo, si giocava tutti insieme a tombola, oppure si faceva una partita a carte. Oggi mia mamma non partecipa più a queste attività. È sempre al computer. Mio fratello, che fortunatamente è un informatico, ha trovato un'ottima forma di comunicazione con lei. Le invia dei messaggi privati tramite il suo portatile. Parlano sul computer da una stanza all'altra della stessa casa. Mi chiamo Graziella Leone, ho 38 anni, vivo a Novara, però lavoro a Milano, pendolo tra Novara e Milano, e lavoro in banca in una direzione centrale, però mi piace molto scrivere e curo un mio blog, Parole in più. Qualche giorno fa, una persona di cui ho particolare stima e anche molta fiducia, mentre stavamo parlando delle dipendenze, di piccole e grandi dipendenze, mi ha detto: guarda, il fatto è che ognuno trova il proprio antidoto ai veleni che la vita ti inietta, no? E quindi le dipendenze sono veramente una forma di antidoto a quella roba lì, al fatto che, insomma, in qualche modo bisogna tirarla, oppure sopravviverla questa vita. E ognuno trova la sua, giusto? La puntata di oggi mi ha fatto venire in mente questa frase proprio perché la storia della mamma di Graziella racconta di questo, racconta di una donna e di una mamma di 65 anni, come più o meno le mamme di tutti noi della mia generazione, più o meno tra i 30 e i 40, che hanno mamme tra i 65 e i 70 anni, che appartengono invece a quella generazione lì, quindi donne che hanno lavorato, che hanno quindi finito il loro percorso professionale, che sono a casa in pensione e che cercano delle attività da fare. Mia mamma, ad esempio, quando è andata in pensione, nei primi due mesi ha lavato tutte le tende, lavato tutti i tappeti, stirato tutte le lenzuola, lavato tutti i divani, e poi dopo due mesi ha detto: ok, e adesso cosa faccio? E lasciando stare il senso di colpa che la attanagliava quando magari si sedeva a leggere un libro un mercoledì pomeriggio alle tre, perché diceva: oddio, sono qua che faccio niente, ecco, lasciando perdere quello, poi ognuno trova anche lì il suo metodo per tirare avanti e per riempire quel tempo che è improvvisamente vuoto. Ecco, la mamma di Graziella l'ha trovato grazie a Facebook. Nemmeno Facebook, ma una roba che è all'interno di Facebook, che è un giochino che si chiama Farmville. Ora, credo che i frequentatori di Facebook sappiano di cosa sto parlando. Per gli altri ci provo, perché non lo so nemmeno io. È un giochino, che è un'applicazione in cui ciascuno delle persone che hanno Facebook e ci partecipano possono diventare dei contadini, più o meno, giusto? Per cui il gioco consiste nel coltivare del terreno, farlo crescere, ma coltivare proprio ortaggi. Cioè diventi un contadino elettronico, più o meno. Leggo qua, tra l'altro, da Wikipedia che mi ha stampato Margherita. Allora, Farmville ha 82 milioni di utenti attivi al mese e a febbraio del 2011, quindi parliamo di un anno fa, erano sono 29 milioni attivi al mese, mentre sono in totale 82 milioni di persone che giocano a sto giochino. E qua dice: è un gioco che simula la vita di un agricoltore, permettendo ai giocatori di piantare, far crescere, raccogliere piante e alberi virtuali, nonché di allevare animali. Dato l'evolversi continuo del gioco, non è possibile stilare una tabella precisa degli oggetti acquistabili. Se c'è qualcuno all'ascolto che è impallinato come la mamma di Graziella di questo giochino, magari ci racconta cosa sta coltivando, quanti animali ha, al 349 238 6666. Mentre in maniera più ampia oggi si parla di dipendenze, qualsiasi sia la vostra dipendenza, io lo ammetto, perché è anche liberatorio confessare le proprie dipendenze, cioè le guardi in faccia. Io ho una dipendenza, forse l'ho già raccontato in altri modi, molto stretta dalla coppa piacentina. Cioè ogni volta che vado al supermercato, anzi dalla coppa piacentina e dai Fonzi, che sono quelli croccantini di mais al formaggio, che mi hanno provocato peraltro anche un'allergia alimentare qualche anno fa, e la coppa invece non me l'ha ancora provocata, però ogni volta che passo da un supermercato non posso fare a meno di comprare un etto di coppa. Questa è la mia dipendenza, la dico e magari la smetto. Elisa invece: io provo una dipendenza dal cibo. Alessandra: io dai Subsonica. Carlitos: dipendenza dall'iPad, tutte le mattine a letto. Antonella: dalle serie TV americane. Claudio: camminare, mi piace camminare, non riesco a farne a meno. Gaetana: bacco e tabacco. Chiara: dallo shopping. 349-238-6666, ma anche al telefono 800-24-0024 per sentirle dalla vostra viva voce. Oggi apriamo i telefoni, che non è che le altre volte sono chiusi, semplicemente apriamo i telefoni, è proprio una roba che, cioè, degli anni, lo so, ha ragione, sembra Radio Libera, sembra Enrico Bonaccorti. Ma Enrico Bonaccorti fa un programma, ho scoperto che Enrico Bonaccorti fa un programma su una radio pubblica. E Enrico Bonaccorti quanti anni? Più di 69 anni. No, la Bonaccorti cosa avrà? 60? Avrà l'età di mia mamma, Enrico Bonaccorti. Vabbè, e probabilmente anche lei è su Farville. 800-24-0024, la vostra dipendenza confessabile. Perché c'è qualcuno che dice anche alcune dipendenze non sono socialmente accettate. Non so quali siano quelle che invece sono socialmente accettate, però tipo bacco e tabacco effettivamente sono lo sono. Dipendenza dalla corsa, scrive Marco, lenta e amatoriale. E poi Daniele, la mia dipendenza è dai libri. Serena, dipendente da un libro che parla di dipendenza. Questo è un libro di cita Foster Wallace. E poi ancora cioccolato, insomma, qualsiasi sia, vi ripeto, oggi si parla di quella, anche se è Farmville, anche se è Facebook, se è lo smartphone, qualsiasi cosa vale. 800-24-0024 oppure 349-238-6666. Un'ultima cosa prima di cominciare, lo dico spesso quando riceviamo i racconti a voi siete qui, @radio24.it. Noi non facciamo altro che chiedervi un episodio della vostra vita, come esattamente ha fatto Graziella, che racconta la mamma che è dipendente da un giochino elettronico, e lo raccontiamo. Non siamo un concorso letterario, ve lo dico per un semplice motivo, che se voi scrivete una storia bellissima di fiction, noi non la usiamo. Non la usiamo perché abbiamo bisogno di piccole storie vere. Se voi scrivete una bellissima storia di fiction, esistono dei concorsi in cui vincete dei premi. Qui invece, mi spiace, ma non si vince niente, se non semplicemente... No, niente, semplicemente che c'è una puntata dedicata a voi. Però se invece poi è solo fiction, tant'è. 349-238-6666 800-24-0024. Questa è la storia della mamma di Graziella. C'è un lungo periodo della nostra vita in cui, senza l'attenzione dei nostri genitori, ci sentiamo totalmente persi. Poi c'è la lunga fase in cui i nostri genitori, poverini, non possono neanche lontanamente pensare di dedicarci delle attenzioni. Non possono perché noi siamo cresciuti. Ci siamo fatti grandi alla veneranda età di 16 anni e ogni loro mossa ci innervosisce. E poi c'è una terza fase, dove avviene uno strano ribaltamento. A un certo punto siamo noi figli che dobbiamo interessarci e stare dietro ai nostri genitori. Non possiamo abbandonarli e lasciarli allo stato brado. Compito di un figlio è quello di educare e tenere aggiornati il proprio padre e la propria madre. Per dirla tutta, a me non è andata male. Mia madre è una persona particolarmente duttile e malleabile. A un certo punto è andata in pensione e si è trasferita in un'altra città. Per cui a me è sembrata una buona idea iniziarla a Facebook. Così, in modo che potesse restare in contatto con le colleghe più giovani e ritrovare, perché no, amiche di antica data. È una mamma molto sui generis, energica ma molto spiritosa, ecco, diciamo che si ride molto con lei, si prende molto sul serio, però poi appunto riesce a ridere anche di sé e di quello che dice. Per non farla annoiare, le spiegai che su Facebook ci sono anche dei giochi e le feci scoprire Farmville. Dopo pochissimo tempo, mia mamma era diventata totalmente dipendente da questo gioco. Per il suo compleanno ha chiesto un PC nuovo con uno schermone da 24 pollici, per meglio ammirare la sua farma, la sua fattoria. Pensa solo a quello. Per dire, le nostre cene sono diventate un vero incubo. Mia madre si alza di continuo perché deve andare a controllare il computer e ad arare i suoi campi, accudire gli animali e mantenere relazioni di buon vicinato. Un tempo dopo pranzo si giocava tutti insieme a tombola, magari, o si faceva una partita a carte. Oggi no. Mia mamma non partecipa più a questa attività. È sempre al computer. Mio fratello, che fortunatamente o sfortunatamente è un informatico, ha trovato un'ottima forma di comunicazione con lei. Le invia dei messaggi privati tramite il portatile. Parlano sul computer da una stanza all'altra della stessa casa. Insomma, alla fine il mio corso di aggiornamento mi si è ritorto contro. Beh, legge molto pittura e poi comunque mentre gioca generalmente ascolta la radio, i programmi e quindi scrive anche molto alle redazioni, manda i messaggini e non era molto, diciamo, che era in pensione, che ha iniziato a giocare e a essere presa in questo giro. Adesso ho capito che se voglio comunicare con mia mamma mi devo tecnologizzare, devo stare al passo con i tempi. E allora quest'anno mi sono preparata ed ecco la sorpresa. Ho scritto un libro. Mi sono messa al lavoro e ho voluto raccontare questo spaccato di vita. L'ho intitolato Amici di Facebook, vicini di Farmville. Già che c'ero e sempre per venire incontro, ho preparato un piccolo video che ho caricato su YouTube. Dura un minutino e riassume tutte le azioni compulsive di un farvigliano doc, come lei, in ore e ore di gioco. L'ho fatto ovviamente con uno scopo ben preciso. Voglio che tra quelle pagine lei si ritrovi. Voglio che leggendosi, riconoscendosi in quelle pagine, lei realizzi che quel gioco, quel passatempo innocente, col tempo per lei è diventata una vera e propria dipendenza. Il luogo comune vuole che capire di essere dipendenti da qualcosa, cioè l'accettazione di questo problema, sia il primo passo per uscirne. Ma rimane solo un piccolo dubbio. Avrà il tempo di darci un'occhiata. D'altra parte, la storia romanzata non è, non lo è troppo. La storia di Graziella e di sua mamma qui in redazione ha riscosso un enorme successo. Ed è evidente, no? Cioè, pensare a una mamma che, esattamente come facevamo noi da adolescenti, si alza ogni due secondi da tavola per andare a controllare Facebook, fa molto ridere. Sembra la scena di un film comico. Anzi, probabilmente se ci fosse uno sceneggiatore all'ascolto, prima o poi questa storia forse la vediamo al cinema. Comunque, la cosa incredibile è che una cosa del genere io l'avevo già sentita. È la storia della mamma del mio amico Roberto. Roberto è un appassionato di serie televisive. Fa parte di quella specie di setta, avete presente, quelli che sembrano avere rinunciato al sonno e riescono a seguire 85 serie TV americane contemporaneamente. Sa tutto. Sua mamma, la mamma di Roberto, si chiama Emma, ha sui 65 anni e ha un problema. Si annoia. Non ha niente da fare, sta a casa tutto il giorno e si annoia. Allora Roberto cosa ha fatto? Roberto l'ha iniziata a una droga potentissima. Lost. Lost è la serie televisiva di quelli che finiscono su un'isola che sembra essere più piena di misteri e trabocchetti di un numero della settimana enigmistica. Avete presente, no? Sono bastate 3 puntate. Alla 4ª puntata, la mamma di Roberto ha cominciato a girare per casa con un atlante per tentare di capire dove fosse finito il volo 815 della Oceanic. Alla fine della prima serie, Emma era talmente impallinata che ha chiesto a suo figlio di insegnarle a scaricare illegalmente le puntate. Non ce la faceva ad aspettare un anno per vedere la seconda stagione. E allora ha imparato a usare Torrent. Si scaricava le puntate in lingua originale e poi ci metteva anche i sottotitoli. Io non so come si fa una cosa del genere. Emma, sì. Durante la seconda stagione, poi, è successo l'irreparabile. La mamma di Roberto ha scoperto un forum tutto dedicato a Lost. E allora ha cominciato a scrivere tutto il giorno su sto forum. Che vuol dire che si è creato un account per poter entrare nel sito e ha scelto un nickname, cioè uno di quei nomi finti che si scelgono in rete. E si è scelta pure un avatar. E ha cominciato a passare mesi a parlare con degli sconosciuti delle interpretazioni filosofiche di Lost. Ha scritto talmente tanta roba che a un certo punto quelli che avevano messo in piedi il forum le hanno chiesto se voleva diventare amministratrice di un'intera sezione. E lì Roberto, quando me ne parlava, mi diceva che da una parte era contento, perché lui è uno smanettone coi computer e quindi il fatto di vedere sua madre che parlava di torrent e sottotitoli lo riempiva di gioia. Grazie a quel forum non solo sua madre non si annoiava più, ma aveva anche incontrato un sacco di persone con cui aveva instaurato dei rapporti d'amicizia vera. Una volta mi ha raccontato che invitò a cena una ragazza molto più giovane di lei, conosciuta in rete, la quale poi ricambiò invitando Emma per 2 giorni a casa sua al lago. Dall'altra parte però Roberto era disperato, perché lei lo tartassava tutti i giorni chiedendogli cose che per lui erano senza senso, robe tipo «Roby, ma tu sai qualcosa di Tommaso Moro? A scuola non avete mai studiato niente sulla teoria del caos? O sui viaggi nel tempo? Roberto, cosa mi sai dire?» E poi succedevano dei drammi veri e propri. Cioè, tipo, Emma magari litigava o discuteva fino agli insulti su chi fosse il più bello tra i 2 attori principali della serie, e la discussione era con una che si chiamava tipo Sabri 85, non con Umberto Eco. A un certo punto poi, non ho mai capito per quale motivo, Emma ha litigato con tutti quelli del forum e una volta finito l'host ha abbandonato tutto. Ogni tanto mi dice che lei lurca, che Roby mi ha spiegato che vuol dire che spia. Adesso si è iscritta a un corso di decoupage e fa dei vassoi bellissimi. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Sono dipendente dalle news, non riesco a fare a meno di ascoltare GR, radio, leggere giornali, guardare la TV, Twitter, eccetera, eccetera. La mia dipendenza è il poker live, Ale. Dipendo dai libri e dai programmi che parlano di diete e di gente che perde moltissimi chili, Carmen. Dipendenza da Zagor, Michele di Parma. Zagor è il fumetto, Zagor. Dipendenza dalle mie ex, le penso tutte, non riesco a farci a meno, è un incubo. Beppe da Reggio Emilia, giocando a Farmville ho smesso di coltivare la mia vita. Dipendenza dalla chitarra, dipendente da eBay, borse, bigiotteria, cosmetici, ciao Sabrina. E poi, scusatemi sempre per la rubrica messaggi fuori contesto, ma la margherita del tuo staff è la stessa margherita di cui parlavi in un programma anni fa, tua fidanzata e tua nonna, non parli più di lei. E poi ancora, non amavi Lucio Dalla. E poi, già che ci sei, mettici dentro qualcos'altro in questo SMS. Amavo Lucio Dalla, mi piaceva come molti. La cosa più divertente di cui parlavo prima con Tiziano è che leggevo per i saluti, i commiati da Lucio Dalla, erano quelli che per parlare di Lucio Dalla parlavano di loro, di quando Lucio Dalla gli faceva i complimenti. Avete presente? Lucio Dalla mi stimava moltissimo, io piacevo Lucio Dalla. Benissimo, è ora che l'abbiamo saputo, grazie mille. 349-238-6666 800-24-0024. Andiamo da Graziella, che è la vera protagonista del dramma di oggi. Pronto? Pronto? Ciao Graziella. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi? In un sottoscala? No, in una stanzetta, in un ufficio che hanno sgomberato, non si sa per quali scopi. Ma perché sei in ufficio in questo momento? Sì. Dove non potresti nemmeno rispondere al telefono? No, in realtà si può, una piccola pausa è concessa. Ok. Parliamo di tua madre, Graziella. Abbiamo bisogno di un aiuto? Abbiamo bisogno di qualcuno che le parli? Di qualcuno che le stia vicino? Oppure va bene così? Ma no, diciamo che va bene così, sì. È comunque divertente, quindi... A quando risale questo episodio? No, in realtà è un bel po' di tempo, saranno almeno un paio d'anni che è così. Ci sono ogni tanto delle ricadute, tanto per dirne una, questa mattina mi ha detto, convinta, perché lei poi è convinta quando dice queste cose, mi fa: ah no, ma adesso gioco meno, ieri sera sono andata a letto prima, io mi sveglio alle 6 di mattina, quindi lei era sveglia, allora gli ho chiesto: beh, ma che ora sei andata a letto? Ed era l'una, ma forse l'una e un quarto, l'una e mezza. Ma scusami, tua mamma, tuo papà non c'è più, oppure sono separati, oppure... Ok, quindi diciamo vive da sola tua mamma. E vive con me, per quando è andata in pensione poi è venuta a stare da me. Ma a Novara? Sì. Ah, ok. E quindi cioè, tu hai una vita sociale in teoria con questa donna, cioè come dicevi, a pranzo o a cena lei c'è ma non c'è. Sì, esatto. Diciamo che i momenti in cui interagiamo sono decisamente diminuiti. Interagiamo adesso via computer da una stanza all'altra. Ma senti, ma lei la ammette questa forma di dipendenza oppure va dritta sul fatto che si diverte e passa il tempo? Sì, beh, dice che appunto si diverte, passa il tempo e comunque le serve per ascoltare la radio e comunque per comunicare con le altre persone. Ma però... scusami, tra l'altro qua sembra veramente il convitato di pietra. Lei sa che stiamo parlando di lei in questo momento oppure no? Sì, lo sa, credo che sia anche in ascolto. Vediamo se stasera mi apre la porta di casa. Ma infatti, scusami, tu, visto che spesso no, funziona così, no, come da Maria De Filippi, che ci si dice delle cose che magari a tavola non ci si riesce a dire, vuoi dire qualcosa a tua mamma? Emma, giusto? No, scusami, come si chiama tua mamma? Luisa. Scusami, Lisa? Luisa. Vuoi dire qualcosa a Luisa? Vuoi dire forse quei latifondi che ti sei creata sono meno importanti del nostro rapporto? Vogliamo salvare il nostro rapporto? Vogliamo fare qualcosa di più? Non lo so. No, beh, dai, il rapporto comunque è salvo lo stesso e si riesce. Alla fine mi sembra di capire, tu le hai dedicato un libro di fatto, giusto? Hai scritto una storia che è in un libro e gliel'hai dedicato. Lei l'ha letto? Sì, ho scritto questi amici di Facebook vicini di Farmville, storia di quotidiana follia, che è in formato ebook e poi anche cartaceo, però siccome un paio di settimane fa le ho regalato un Kindle, quindi un lettore ebook, sì, gliel'ho messo lì. E lo sta leggendo lei? Che se lo possa leggere? No, ancora no, a dire la verità, comunque aveva già letto le bozze all'inizio. Cioè, la sensazione è che lei non ne voglia proprio uscire da sta roba, scusami. No, secondo me no, insomma, ha detto, ho già dato, ho fatto altre cose e va bene così. Ok, le passerà, grazie mille, Graziella, saluta tua mamma Luisa, grazie. E grazie per la storia e per la chiacchiera. Grazie, ciao, buona giornata, grazie mille. Ciao Matteo, sono Piacentina, ma credo sia più buona la coppa di Parma. E va bene, ti ringrazio. Voi siete qui. E la foto che ci manda Graziella è in casa, perché si fa una foto allo specchio, è un autoscatto di quelle proprio casalinghi, con un armadio alle spalle, direi, quindi probabilmente è in camera sua. È tutta vestita di nero, la cosa particolare però è che ha una specie di colbacco in testa, è una roba pelosa che sembra comunque un animale, anche se finto, sulla testa. E evidentemente non vuole farsi molto vedere, perché tiene gli occhiali da sole davanti alla bocca. Ma la cosa però che non capisco è che cosa tiene in mano. Perché, è un iPad, tiene in mano un iPad con cui si scatta la foto, perché è coperto da una copertina nera e spunta giusto l'obiettivo. Lei è Graziella, certo, mi sarebbe piaciuto anche vedere la mamma, ma per oggi va bene così. 349-238-6666, oggi si parla della vostra dipendenza, di quella proprio, della dipendenza a cui non potete rinunciare, altrimenti non si chiamerebbe dipendenza. Io ringrazio quelli che mi scrivono che la coppa di Parma è più buona di quella di Piacenza, e soprattutto non chiederti se avendo io una dipendenza dalla coppa, se è più buona quella di Parma o quella di Piacenza, perché se le compri al supermercato fanno schifo entrambe. E vabbè, allora la prossima volta andrò alla Farmville della mamma di Graziella, dove probabilmente si coltiva pure quella. Andrea da Firenze: ho una dipendenza dal film Il Signore degli Anelli. Tutti e tre i film, ma soprattutto La Compagnia dell'Anello, che credo sia il primo. L'avrò visto realmente un centinaio di volte. Questo vuol dire che dura 3 ore quel film. Questo vuol dire che sono 300 ore a guardare Il Signore degli Anelli. E poi ancora, ho la dipendenza dalle macine del Mulino Bianco. Io sono porno dipendente, va bene. Sono malato di Travian. È un gioco simile a Farmville, ma con più competizione. Ciao, Andrea De Pinerolo. 800240024 349-238-6666. Andiamo a Bari. Pronto, Nicola? Sì, buonasera. No, dammi... Come va? Bene, tu come stai? Non ci possiamo lamentare. Che cosa fai nella vita, Nicola? Io mi occupo di... praticamente sto nel mondo dell'estetica, quindi vendo prodotti per i centri benessere. Cosmetici? Non cosmetici, prodotti che servono... Sì, vabbè, alla fine anche cosmetici. Sì, ma sei un commerciale? È un commerciale, sì. Ok. E che dipendenza hai tu, Nicola? Io ho la dipendenza dai siti internet per incontri con le donne. Cioè, per incontri uomini-donne, donne-uomini? Sì, uomini-donne, donne-uomini. E come funzionano? Cioè, che tu ti crei un profilo, metti la foto e poi ci si contatta? Uno di quelli, diciamo, più produttivi dal punto di vista degli incontri è sicuramente Meetic. Sì, sì. Poi ci sono i vari Messenger... Scusami, eccetera. E cosa vuol dire, Nicola, una dipendenza? Nel senso che quante volte al giorno lo controlli, ad esempio? No, il controllo no, però appena metto piede in casa, appena rientro in casa, la prima cosa che faccio è quella. Cioè, una o due volte al giorno lo controlli, diciamo, almeno? Sì, dipende, perché insomma è logico che si dà preminenza al lavoro. Vabbè, no, ovvio. Tu sei single, Nicola? Sei single, non hai compagno? No, ho una compagna. Ah, ok, quindi ci stai dando un nome finto? Beh, sì. Ok, no, giusto perché avevo per un attimo tremato per te. Senti, da quanto ci stai su questo sito, su questi siti di incontro? Da circa 3-4 anni. E in 3-4 anni quanti incontri reali hai fatto? Ma guarda, un centinaio circa. Un centinaio vuol dire è tanto tempo impegnato, no? Cioè un centinaio, perdonami, ma un centinaio con 100 persone diverse o un Sì, 100 persone diverse. E quindi... Ma io ho una media di circa 3-4 incontri nuovi al mese. E sono produttivi questi incontri? Non so da quale punto di vista, molto. Però... Molto? Molto, sì. Cioè, io è logico che ho telefonato perché io la definisco una dipendenza perché oramai è diventato il mio unico hobby. Io prima facevo sport, oppure mi piaceva molto andare a sentire conferenze da Feltrinelli. Sì, sì. Vedevo, non dico tanta televisione, però la sera, siccome la mia compagna va a dormire prima di me, così insomma per addormentarmi mi mettevo lì, guardavo. Invece ora il mio unico hobby, il mio unico divertimento, è quello. Ecco perché lo definisco la dipendenza. Ma infatti guarda, mi sembra chiaro, mi divertiva il paragone tra basta con le conferenze alla Feltrinelli, via agli incontri, ai siti di incontri. Scusami, la domanda però che mi viene da farti è: come la vivi questa cosa? Sei tranquillo? È una cosa che... Sì, la vivo molto bene, anche perché, diciamo, cavalcando quello che tu hai appena detto, non è un paradosso, perché io lo faccio, non voglio fare il presuntuoso, ma non lo faccio in forma banale. Cioè questi incontri, oltre a produrre degli scambi corporei, diciamo, abbastanza ludici e divertenti, quello che mi affascina molto è io sono un grande appassionato di comportamentistica umana, mi affascina molto la mente, tout court. Quindi questi incontri poi ti danno la possibilità di approfondire questo aspetto cioè da un altro punto di vista, Nicola, è semplicemente che ognuno di noi ha bisogno di conferme, no? E che probabilmente incontrare 3-4 persone, donne al mese, dà a te, come a chiunque abbia questo tipo di pratica, delle conferme sulla propria maschilità, sulla propria capacità di essere seduttivo, eccetera, eccetera, eccetera. All'inizio sì, poi ti passa tutto, perché una volta che hai capito che attraverso la fabulazione ho tutta una serie di stronzate che puoi sparare per incontrare. Cioè, sì, esatto. Mi è sembrato il termine esatto. Esatto, Nicola, ti ringrazio per averlo detto tu e avermi sollevato dalla questione. Nicola, ti saluto perché siamo al telefono da un sacco e voglio sentire Graziella. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Pronto, Graziella da Novara, non è la stessa di prima? Sì, sono sempre... No, è un'altra. Ah, ok. Ciao, Graziella. Ciao. Tu sei dipendente da che cosa? Allora, io sono dipendente dall'acqua, acqua piscina. Cioè, nel senso, dell'acqua come elemento in cui stare? Esatto, piscina, tant'è che è diventato anche il mio mestiere. Io sono insegnante di nuoto da 30 anni. Ma prima di farlo, a questo punto prima di farlo no, cioè nel senso che tu hai bisogno di stare in acqua, e quanto ci stai però quotidianamente? No, io ci sto il più possibile, anche perché poi è anche diventato il mio lavoro, ma secondo il mio punto di vista è proprio un ricordo da piccolina, è un ricordo da piccolina che mi è venuto in mente adesso mentre stavo ascoltandoti. E cioè? Mi ricordo una piscina bellissima a Monte Carlo, io sono ligure, sono tornata da poco qui a Novara. Mi ricordo questa piscina bellissima di Monte Carlo, ed ero piccola, avrò avuto 7-8 anni, e da quel momento ho detto, quello è il posto dove voglio stare, dentro quel posto lì. E da quel momento lì ho fatto di tutto per diventare poi insegnante di nuoto, diventare una persona che sta sempre in acqua. Quindi sei in pace, Graziella? Sono in pace. Sono in acqua, sono in pace. Nonostante tu vivi a Novara, grazie mille, Graziella, buona giornata. Ok, grazie. Ciao, grazie. La gente reagisce male, ha reagito male la telefonata di Nicola, devo dire, era prevedibile. Semplicemente cerchiamo di raccontare storie senza giudicare nessuno, e abbiamo fatto lo stesso. 349-238-6666, gente che scrive grandioso. Grandioso qual è? Mythic, certo. Basta, ok, ci siamo. Abbiamo tentato un esperimento nuovo. Sapete che ha un profilo Twitter questo programma da qualche tempo, che è Voi Siete Qui, che seguiamo tutti, ma in particolar modo Margherita Ina, che ormai non suda nemmeno più nel gestirlo. Martedì avremo una puntata in cui si parlerà, ci sarà un racconto molto interessante, che è la storia di un ragazzo che subisce un'operazione e scrive il racconto la notte prima di quell'operazione. Abbiamo creato con il profilo Twitter Voi Siete Qui un hashtag, cioè un argomento, che è notte prima, quindi mettete cancelletto notte prima, lo trovate, in cui raccogliamo tutte le vostre testimonianze per la puntata di martedì riguardo la notte prima di qualsiasi evento importante della vostra vita. Che fosse una partenza, che fosse un trasloco, che sia stato un esame o qualunque cosa fosse, andate su Twitter notte prima e scrivete il vostro contributo. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Federico Bernocchi, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Graziella, parlava di dipendenze. Quella di lunedì è la storia di un'altra Graziella e parla di innamorarsi del proprio maestro. Stringeva una custodia per chitarra di pelle nera, una Martin D45. Nell'arco di 11 giorni, la totalità delle fanciulle della scuola media Luigi Pirandello si infatuò perdutamente del supplente di musica. La sottoscritta non risultò un'eccezione.